Ci siamo conosciuti presto, amati molto e sposati giovani. Facevamo una bella vita. Gestivamo un ristorante di lusso. Giravamo il mondo. Non eravamo ricchi, ma decisamente sapevamo come spenderli, quei soldi. Eravamo indipendenti l'uno dall'altra, insomma, non una di quelle coppie noiose, lavoro, divano, domenica pranzo dai genitori. Ci era capitato anche di viaggiare separatamente, e nel 2007 il programma era questo. Prima sarebbe partita lei per la Thailandia, e io per qualche settimana avrei tenuto il ristorante aperto. Lei avrebbe visitato il nord di quel paese e poi il Laos, quindi sarebbe arrivata in Vietnam, dove io l'avrei raggiunta, per passare 2 settimane insieme. Avremmo visitato la Cambogia e poi lei sarebbe rientrata in Italia per ricominciare a lavorare, mentre io avrei avuto ancora un paio di settimane di vagabondaggio. Il viaggio più bello che ho fatto è sicuramente stato un viaggio in Argentina, dove sono stata via parecchio tempo, da sola, è bellissimo.